Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vi parliamo di un'esperienza, quella della regione Umbria, sicuramente una delle esperienze più avanzate in Italia, ma anche in Europa, per quanto concerne la messa a punto di un sistema di app, come quelle dei telefonini, insomma, destinate a promuovere il territorio e quindi app rivolte in particolar modo ai turisti. Di questo progetto, che è in corso ormai da 20 mesi, con varie app già pubblicate e altre che sono in arrivo, si è parlato settimana scorsa alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si è svolta appunto qui a Milano dal 14 al 17 febbraio. Ne parliamo con colui che è all'origine di questa iniziativa, l'ideatore del progetto Umbria App, questo è appunto il nome del progetto, Giovanni Tarpani. Buonasera Tarpani. Allora Tarpani, mi aiuti a fare un po' il punto della situazione. Oggi quante sono le app che avete prodotto e se ci fa qualche esempio, insomma? Volentieri, il primo dato è che noi a tutt'oggi, alla data del 18 febbraio, abbiamo 18 app pubblicate e queste 18 app sono alla fine corrispondenti per circa 80 canali multimediali, perché per ogni app dobbiamo considerare la sua declinazione smartphone, tablet, Android e multilingua naturalmente. Ognuna di queste è un canale a sé. Quindi diciamo come se aveste dovuto fare 80 applicativi diversi, anche se poi le app sono sostanzialmente 18. Questo dà un'informazione, diciamo, sul carico di lavoro. Poi il risultato finale che si vede sono queste 18 app. Ecco, ci fa qualche esempio? Allora, gli esempi sono relativi ad una strategia che noi stiamo attuando in Umbria. La strategia prevede che noi lavoriamo su tre asset di interesse attorno al marchio Umbria: turismo, ambiente, cultura. Per cui le app seguono esattamente queste direzioni di lavoro. Abbiamo un'app fra le più antiche, diciamo forse la prima che noi abbiamo sfornato, che riguarda i musei in Umbria. Mm. Noi abbiamo 62 musei navigabili attraverso le nostre app, sì, fino ad arrivare all'ultima nata, che riguarda i percorsi turistici legati alla presenza degli Etruschi nella nostra terra. E lì addirittura mezzo, realtà virtuale, no? Sì, esattamente. Le ultime applicazioni risentono della elaborazione di tutte le altre. Come sempre, l'ultima è sempre la più bella. Siete diventati più bravi, insomma. Siamo diventati più bravi e necessariamente non si può non notare che nelle ultime applicazioni che noi abbiamo prodotto, in tutte è stata inserita perfino la realtà virtuale, che consente all'utente, dal punto in cui si trova, di avere indicazioni per raggiungere determinati percorsi o determinate mete di interesse turistico. Realtà aumentata, quindi. Realtà aumentata nel pieno senso della parola. Ecco, concretamente quindi che cosa succede? Una persona apre una di queste app sugli Etruschi, la punta in una direzione, per esempio, e cosa vede sullo schermo? Vede sullo schermo ciò che lo circonda, ma in sovraimpressione a ciò che lo circonda compare una barra, in alto a destra un cerchio concentrico, dove sono riportati sia la presenza attraverso un punto arancione della persona che in quel momento si trova in quel posto, sia la distanza in termini chilometrici che lo separa dai punti di interesse. Ok, da vari punti di interesse dove si trovano testimonianze della civiltà etrusca in Umbria. Ecco, e poi diciamo in mezzo c'è un po' di tutto, vedo eventi e news, musei, Umbria Jazz famosissima, Spoleto Festival dei Due Mondi, Fest Arc dell'architettura, mi pare che stia arrivando anche qualcosa sull'enogastronomia. L'ultima che produrremo nell'ambito di questo programma sarà un'app sulla enogastronomia, che presenteremo al Fuori Salone di Milano il 9 di aprile, dal 9 di aprile in avanti, dove saremo presenti all'Accademia di Brera con un nostro concept di comunicazione che è Spazio Umbria. Enogastronomia, presentate sostanzialmente alcuni prodotti tipici della regione Umbria. Ecco, senta, soprattutto quindi sono gli ingredienti, soprattutto legata agli ingredienti con cui combinare gli elementi gastronomici. D'accordo. Prego. L'olio, il vino, insomma, queste cose qua. Dunque, sono delle app essenzialmente rivolte ai turisti. Si capisce anche dai titoli che sono rivolte ai turisti. Insomma, il turista arriva, si scarica una di queste app o magari varie di queste app e ha sott'occhio gli eventi che si svolgono in Umbria, riesce magari a sapere quali sono i musei, li può navigare virtualmente, eccetera, eccetera. Ora, voi avete dato l'annuncio ieri di queste app, diciamo, ma in realtà sono scaricabili da un po' di tempo. Qualcuno le ha già scaricate? Sì, fa piacere dire che alla data del 31 dicembre 2012 noi abbiamo registrato in un anno e otto mesi di vita del progetto 40.000 download, che sono un numero esorbitante. Se si considera che non l'avevate annunciato. Nessuna comunicazione, esattamente. Da dove vengono questi? Dati curiosi sono che naturalmente siamo molto osservati dal mercato cinese, i primi 100 download arrivano tutti quanti dalla Cina, questo per ogni app che noi abbiamo pubblicato abbiamo... I più veloci sono i cinesi ad arrivare a scaricare. Esattamente, mentre invece c'è un interesse fortissimo attorno ai nostri prodotti del Nord Europa, in particolare dai paesi dell'area del Benelux, vale a dire Belgio, Olanda e anche paesi scandinavi. Ok, ok, quindi dalla Cina, dal Nord Europa ci sono gli scaricamenti. Quali sono le app più scaricate? Ma c'è una omogeneità, ma diciamo che spiccano due elementi. Il primo è che l'app News Eventi, quella che dà informazioni sulle caratteristiche di attrazione della nostra terra, è la più scaricata anche per un motivo molto semplice e molto banale. È stata per 6 settimane presente nella home page dell'Apple Store. Dopodiché c'è un fatto significativo: tutti potrebbero pensare che l'app più scaricata è quella legata alle grandi manifestazioni umbre, alle due in particolare, Umbria Jazz e Festival di Spoleto. In realtà quella che viene immediatamente dopo è l'app che riguarda proprio i contenuti dei 62 musei che abbiamo messo nella nostra app. E questo, l'app musei è particolarmente, e questo è un fatto molto seguita. Importante, eh? Cioè il fatto che ci sia interesse per questo tipo di realtà, che sono anche quelle che fanno più fatica ad avere visibilità e anche a trovare le risorse per sopravvivere, no? Quindi è molto importante che questi strumenti riescano invece proprio a sollevare l'attenzione su questo tipo di realtà. Grazie Tarpani. Buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.